penso che non fui leal. Memoria tá viva, eu tengo gravada. E quando sai, eu diz obrigada. En traversant les belles montagnes, parfois le sud, parfois la Bretagne. Toujours sur scène, on sent votre amour. Et pour cela, disons merci beaucoup. India, India, beautiful land. Everywhere you go, gotta say Dhanyavaad. In Italia sono speciali, noi siamo fratelli, questa è la verità. Gure etxea, urrun eta gertu, zutondo bat bezala bero.